Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Eppur si muove. Come cambia la sanità in Europa tra pubblico e privato? Questo è il libro di cui parliamo stasera, un libro edito dall'Istituto Bruno Leoni e scritto da Gabriele Pellissero, che abbiamo in linea. Buonasera, professor Pellissero. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Gabriele Pellissero è medico chirurgo, professore ordinario di igiene presso l'Università di Studi di Pavia, un grande conoscitore del sistema sanitario. Abbiamo in linea anche Alberto Mingardi. Buonasera, Mingardi. Buonasera. Direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, che non solo è l'editore di questo libro, ma Mingardi ha anche contribuito alla stesura appunto di questo rapporto sulla sanità in Italia, ma anche negli altri paesi, perché si parla anche delle esperienze dei sistemi sanitari in altri paesi. Esperienze che sono complesse, perché il sistema sanitario, come dice appunto in un saggio che è riportato in appendice di Milton Friedman, è caratterizzato da tre fattori: il progresso tecnologico, i forti incrementi di spesa e una crescente insoddisfazione per il servizio offerto. Ma non tutto è negativo, almeno nel sistema sanitario italiano. Ci sono anche degli elementi positivi. Quali, dottor Pellissero? Ma gli elementi positivi del sistema sanitario italiano sono rappresentati dal fatto che, prima di tutto, è un sistema che non costa molto rispetto a quelli di paesi che sono vicini a noi e in qualche misura comparabili, come per esempio la Francia o la Germania. È un sistema che offre buona qualità e soddisfazione, ma è un sistema molto disomogeneo, tant'è che noi facciamo osservare che non è forse probabilmente possibile correttamente parlare di un servizio sanitario nazionale in Italia, ma è più corretto esaminare 21 modelli organizzativi diversi, corrispondenti ad altrettante regioni e province autonome. Ecco, quindi è un sistema in cui il federalismo è già attuato, è già possibile misurare gli effetti positivi o negativi di una realtà federale? Beh, lo strano dell'Italia rispetto all'Europa è che l'Italia effettivamente ha costruito all'interno dello stesso paese 21 sistemi diversi. Questo fatto, che dura oramai da circa 20 anni, è leggibile, ci consente di vedere che cosa capita in una popolazione libera di muoversi quando noi abbiamo un grande pluralismo di offerta di prestazioni sanitarie erogate da modelli che sono diversi l'uno dall'altro, sia per qualità che per accessibilità e per caratteristiche generali. Ecco, questo vuol dire che può nascere appunto un'analisi secondo cui alcune regioni sono virtuose e altre sono, per dire così, tra virgolette, viziose, cioè si spende di più e i servizi sono peggiori. In primo piano chi mettiamo? Guardi, io ho tentato di fare una specie di graduatore di sintesi e questo fatto lo poniamo sempre con molta precauzione, ma non c'è dubbio che è possibile riconoscere, mettendo insieme ciò che possiamo conoscere comparativamente in modo abbastanza tranquillo, sia gli elementi di efficacia che gli elementi di efficienza, cioè qualità delle cure e rigore di bilancio. Noi abbiamo un gruppo di regioni che sicuramente si trovano nel territorio positivo e abbiamo un gruppo di regioni che si trovano in territorio negativo. Il leader, colui, la regione che guida la classifica del positivo, e questo già da un buon numero di anni, è sicuramente la Lombardia, che è anche la regione che ha sperimentato il modello di organizzazione sanitaria più originale di tutti. Cioè un modello di organizzazione sanitaria in cui il pubblico e il privato si integrano a vicenda. Sì. È un modello, ed è l'unico in Italia, nel quale il pubblico e il privato sono posti esattamente sullo stesso piano e in questo modo generano una sorta di competizione virtuosa nella quale aspetti positivi dell'uno e dell'altro si possono confrontare, ma soprattutto nel quale il cittadino ha una vera libertà di scelta e può orientarsi verso la struttura che lui ritiene migliore. Questo fatto ci consente di generare, fra l'altro, un altissimo livello di soddisfazione, perché la possibilità di scegliere, di variare concretamente, è sicuramente uno dei fattori più importanti per garantire il consenso nei confronti dei sistemi di offerta sanitaria. Ecco, io vorrei allora sapere qual è l'opinione di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, autore di questo libro e che è noto come un convinto liberista. Questo rapporto pubblico-privato può essere costruttivo, Mingardi? Assolutamente. assolutamente, soprattutto un'interazione pubblico-privato è l'unico modo per ora di tutelare perlomeno la libertà di scelta del paziente e effettivamente la libertà di scelta dei trattamenti dei medici. Segnatamente bisogna sempre ricordarsi che i protagonisti di un sistema sanitario sono poi per l'appunto i medici. La libertà del medico e il fatto che la classe medica non venga sostanzialmente ridotta a un'altra burocrazia è un'altra cosa importantissima, perché questo non avvenga però, non si può che partire come in qualsiasi mercato dal consumatore. Il paziente non può essere considerato esclusivamente un soggetto passivo e soprattutto nello scenario nel quale ci troviamo, in cui aumentano le informazioni sulla salute, in cui oramai c'è anche una forte consapevolezza e molta fame per informazioni specialistiche ma digeribili da un pubblico generale, il paziente non vuole più essere considerato un soggetto passivo. Un modello come quello lombardo, esaltando la libertà di scelta del paziente almeno a un livello, cioè quello della scelta delle strutture, sicuramente garantisce insomma di venire incontro un po' meglio degli altri modelli italiani alla perplessità di Milton Friedman, cioè al fatto che paradossalmente la sanità, la fornitura di servizi sanitari nel mondo ha visto un grande miglioramento del tecnologico legato all'innovazione, ma parallelamente un aumento e dei costi e dell'insoddisfazione dei consumatori, dei pazienti pressoché in tutto il mondo. Ecco, sotto questo profilo il libro che ricordo Eppur si muove, come cambia la sanità in Europa tra pubblico e privato, prende in esame anche le situazioni di paesi come Italia, Francia, Germania, Olanda e Svizzera. Ecco, vorrei chiedere che cosa possiamo prendere da queste analisi come elementi positivi di cui tener conto appunto per migliorare una realtà come quella italiana. Alberto Mingardi. Sono due i punti che mi permetterei di avanzare. Il primo, noi abbiamo considerato questi paesi e non altri, perché in questi paesi è molto evidente come un sistema pensato originariamente in un modo, i sistemi sanitari sono disegnati su due modelli, un modello simile a quello originariamente proposto in Gran Bretagna, un modello simile a quello originariamente proposto in Germania, semplificando un sistema di fornitura pubblica completa del servizio oppure un sistema di assicurazione sociale obbligatoria. Ecco, noi abbiamo guardato questi due modelli, questi diversi paesi, a partire dal fatto che sono tutte realtà in cui il modello originario è stato ibridato, cioè sono arrivati elementi nuovi. Questi elementi nuovi coincidono in linea di massima con un maggiore ruolo degli operatori privati, che sostanzialmente è l'unico fattore che permette di tenere assieme un sistema sanitario come era pensato nel secolo scorso e contestualmente l'innovazione tecnologica che cambia un po' tutti i parametri, a cominciare dall'aspettativa di vita. Secondo punto, delle diverse lezioni che da questi sistemi vengono, la lezione più interessante viene dal sistema che ha innovato di più. Il sistema che ha innovato di più è quello olandese, che ha cambiato radicalmente la propria natura, rimanendo sì un sistema basato sull'assicurazione sociale, ma introducendo come intercapedine tra la spesa pubblica, che finanzia comunque le persone, quindi il sistema resta universalistico, e la fornitura di servizi sanitari da parte di strutture le più diverse, private, non profit, pubbliche, universitarie, eccetera, introducendo come intercapedine, dicevamo, delle assicurazioni private in concorrenza tra di loro. Per cui la scelta del paziente non è soltanto una scelta dell'ultimo miglio, non è soltanto la scelta della struttura, ma è anche la scelta tra diverse assicurazioni che forniscono per l'appunto un servizio di assicurazione contro la malattia. Ecco, questo è il modello olandese. Io vorrei tornare a Pellissero proprio per vedere invece la realtà italiana. Indubbiamente può essere utile riflettere su questi spunti. Resta il fatto che la realtà italiana risponde alle esigenze dei cittadini, ha bisogno certamente di essere integrata, di avere un'evoluzione, di avere un'attenzione sotto il profilo della politica pubblica, però su delle strutture che restano ancora delle strutture fondamentalmente positive. Sì, la ricerca biomedica in Italia è buona, i medici italiani sono buoni medici, ottimi medici, per cui molte condizioni di successo sicuramente esistono. Bisogna però che l'evoluzione organizzativa, le scelte di politica sanitaria che si compiono nel nostro paese si orientino un poco meglio. Per esempio, molto importante sarebbe quello di usare meglio le potenzialità che il privato presente in molte regioni può offrire e che in pochissime regioni, forse solo nella Lombardia, oggi è usato nel modo migliore. Grazie professor Pelissero, grazie anche ad Alberto Mingardi, due autori del libro Eppur si muove, come cambia la sanità in Europa tra pubblico e privato. È edito dall'Istituto Bruno Leoni di Milano, ha 256 pagine, costa 22 euro, un investimento positivo per capire come funziona la sanità in Italia, come è possibile guardare positivamente a questa realtà che abbiamo visto. Costa anche meno di quella di altri paesi, ha una sua efficienza, ma ha anche bisogno di essere spinta responsabilmente da ciascuno di noi ad essere sempre più economica ed efficiente nello stesso tempo. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Valeria Bernardi in regia e Danita Panizza in redazione. L'appuntamento è per settimana prossima.